i mercati, il differenziale nel Bund risale oltre quota 330. Non ci sarà una valanga di licenziamenti, dice Napolitano, quella del lavoro è una riforma necessaria, ci sarà dibattito in Parlamento. Lo sciopero delle bisarche mette in crisi il settore auto, la Fiat denuncia minacce e incendi di automezzi. Buona giornata dalla redazione, da Enrico Pagliarini. Iniziamo da alcuni dati che riguardano l'economia italiana. Nel 2012 la Confcommercio stima un calo del prodotto interno lordo dell'1,3%, che corrisponde ad un salto indietro di 13 anni. I consumi oggi sono ai livelli del 1998 e il PIL ai livelli del 1999, spiega Confcommercio. Il prodotto interno lordo sarà piatto nel 2013 e tornerà a crescere dello 0,9% nel 2014. La stima della Confcommercio è stata presentata questa mattina al forum di Cernobbio. A proposito di pressione fiscale, siamo al 45% del PIL, ma se si elimina dal prodotto interno la quota di sommerso, la pressione fiscale legale raggiunge il 55%, portando l'Italia ad essere maglia nera a livello mondiale. E a causa dell'incremento della tassazione che si è verificato sui carburanti tra marzo 2011 e marzo 2012, lo Stato incasserà da oggi in avanti 9,8 miliardi di euro in termini annui. È quanto emerge dalle stime di Federconsumatori e Adusbef, considerando i rialzi di accise e IVA su benzina e gasolio. Dopo questa carrellata di numeri diamo uno sguardo ai mercati, soprattutto a quello dei titoli di Stato. In diretta Valeria De Rosa, buongiorno. Di nuovo buongiorno a te Enrico e ai nostri ascoltatori. Le maggiori tensioni sono proprio sul mercato obbligazionario relativo ai titoli di Stato, e allora si allarga il differenziale tra BTP e Bund, 334 punti in questo momento, ma oggi le tensioni vengono scatenate soprattutto dalla Spagna. Anche in questo caso si è allargato a oltre 366 punti base lo spread tra i titoli decennali spagnoli e quelli tedeschi, sui timori di un possibile default della Spagna. Il tasso del bond iberico è in salita al 5,5%. I mercati temono che il paese non riuscirà a evitare una ristrutturazione del debito. Economisti e analisti hanno spiegato che l'economia spagnola è messa peggio di quanto si possa pensare. Addirittura, secondo il capo economista di Citigroup, Madrid non ha mai corso un rischio di default così alto come in questo momento. E su questi timori ampliano le perdite anche i listini del vecchio continente. Parigi cede uno 0,85%, Francoforte lo 0,71%, Londra cede uno 0,27%, a Milano il FTSE MIB e il FTSE All Share cedono un punto percentuale circa. Staremo a vedere poi che cosa succederà nel corso della giornata. A mercati chiusi per noi alle 18.45 ci sarà il discorso di introduzione alla Fed Conference di Ben Bernanke, ed è tutto. Grazie Valeria. Adesso parliamo della riforma del mercato del lavoro, di cui discute oggi il Consiglio dei Ministri, che è riunito da poco più di un'ora e mezza. In diretta da Roma sentiamo Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Buongiorno, la riunione è in corso come dicevi e potrebbe durare anche a lungo. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è la riforma del mercato del lavoro e probabilmente il provvedimento sarà approvato con la formula salvo intese. Questo renderà possibili altre modifiche prima che arrivi in Parlamento, ma permetterà comunque a Monti di partire domani per il suo viaggio in Oriente con un testo ufficiale da presentare agli investitori. Sul nodo dell'articolo 18, ieri incontrando le parti sociali, il Presidente del Consiglio si è limitato ad assicurare che si vigilerà perché non vi siano abusi nei licenziamenti per motivi economici, per i quali la riforma del Governo, lo ricordiamo, cancella l'eventuale reintegro. Ma in questa riunione del Consiglio dei Ministri non si parlerà soltanto di lavoro, è previsto infatti anche un esame della delega fiscale, cioè della riforma del fisco. Fra le novità c'è il fondo finanziato con la lotta all'evasione fiscale che servirà per ridurre le tasse, c'è anche il riordino della giungla degli incentivi. La materia è comunque molto complessa, ma non è escluso che anche in questo caso si possa arrivare ad un'approvazione del provvedimento sempre con la formula salvo intese. Per ora da Palazzo Chigi è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Intanto è arrivato il via libera del CIPE allo stanziamento di circa 2,5 miliardi di euro al fondo infrastrutture ferroviarie e stradali. 70 milioni di euro vanno invece al fondo per lo sviluppo e la coesione. Naturalmente il tema del lavoro è quello di cui si discute di più, allora sentiamo Alessandra Scheppisi che ci fa un po' il punto della situazione sul dibattito, tra l'altro è intervenuto questa mattina anche il Capo dello Stato. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Nessuna valanga di licenziamenti nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri si appresta a varare la riforma del mercato del lavoro. Il Capo dello Stato cerca di smorzare le tensioni, di rassicurare sugli effetti della modifica dell'articolo 18. Il problema più drammatico, dice Napolitano parlando a margine della cerimonia alle Fosse Ardeatine, sono le crisi aziendali, le imprese che chiudono, i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro non attraverso l'articolo 18 ma per il crollo di determinate attività produttive. Per il Capo dello Stato bisogna puntare soprattutto a nuovi investimenti, nuove iniziative in cui possano trovare sbocco soprattutto i giovani. Napolitano poi ricorda, in un tentativo forse di rassicurare alcune forze politiche, PD in primis, che la riforma andrà in Parlamento, ci sarà una discussione, si confronteranno preoccupazioni e proposte. Sono convinto, dice, che si arriverà ad un risultato di cui si potranno riconoscere meriti e validità, perché era una riforma da fare. E sulla necessità di cambiare la riforma in Parlamento è tornato a parlare poco fa il leader del PD Bersani: o si cambia o il Parlamento può chiudere, sottolineando che il PD sta dalla parte dei lavoratori. Restano poi i malumori dei sindacati, a parte il no secco della CGIL a modifiche dell'articolo 18 da registrare il dietrofronte di CISL e UGL, che chiedono il reintegro del lavoratore licenziato per ragioni falsamente economiche. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Scheppisi. Adesso cambiamo argomento. In questi giorni, nell'ambito della protesta delle bisarche, gli autotrasportatori di auto nuove, si stanno verificando numerosi episodi di violenza, tra cui incendi di automezzi, minacce e aggressioni ad autisti che non aderiscono allo sciopero. Lo ha riferito questa mattina la Fiat in una nota in cui spiega che il danno economico provocato dall'agitazione sta diventando insostenibile per il settore automobilistico italiano e ad oggi non si vedono segnali che possano fare pensare alla fine dell'agitazione e anzi la situazione sembrerebbe in peggioramento. Su questo sentiamo Andrea Malan. Lo sciopero di bisarche prosegue e, come abbiamo visto dal comunicato di Fiat di questa mattina, continua a danneggiare il settore auto. Il Lingotto ha annunciato fermate produttive per i prossimi giorni sia a Cassino che a Pomigliano d'Arco, dove viene prodotta la nuova Panda. Nei giorni scorsi Fiat aveva parlato di un numero di vetture pari a 20.000 perse per questo sciopero e anche le case straniere ne soffrono, ma naturalmente in misura minore perché non hanno stabilimenti produttivi qui nel nostro paese. Un'importante casa straniera stamattina diceva che di aver perso circa 5.000 vetture dall'inizio dell'agitazione che dura da oltre un mese, quindi è una situazione indubbiamente difficile e che arriva in un momento estremamente delicato per il settore. Sappiamo che le immatricolazioni già a gennaio e febbraio avevano avuto cali di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Parliamo del comune di Verbania, che è stato condannato a pagare oltre 1 milione di euro ad Euromatic, una società che gestisce le slot machine che si trovano nei locali pubblici del paese. Per avere ordinato, questa condanna avviene per aver ordinato lo spegnimento delle macchinette nell'arco della mattinata. Simone Spezia ha intervistato il sindaco Marco Zacchera. Nel 2005 l'intero quasi consiglio comunale ha deciso di mettere un regolamento delle macchinette limitando il loro utilizzo dalle ore 15 alle ore 22. La ditta ha ricorso al TAR sostenendo che questa delibera è illegittima perché è questione di ordine pubblico, quindi di competenza statale. Noi obiettiamo che invece era di competenza sanitaria e sociale, il TAR ci ha dato torto e quindi è decaduta sono decadute le ordinanze e il regolamento del consiglio comunale. A questo punto una delle ditte che opera a Verbania ha chiesto i danni per il comune quantificabili in 1.350.000 euro, sostenendo che alcune ore di chiusura ogni giorno, cioè la mattinata, ha portato a questo danno. Ma quante sono queste macchinette? Perché la scelta di chiudere proprio la mattina? A Verbania abbiamo centinaia di macchinette, siamo saliti più o meno a 1 ogni 50 abitanti, ma penso che la situazione sia abbastanza uguale in tutta Italia. Nella mattina noi chiediamo la chiusura soprattutto perché vengono usate dagli studenti, anche se magari non sono maggiorenni, e dalle persone anziane che giocano e in pochi minuti spesso si mangiano la pensione. Il TAR ha applicato una norma del 1931? Sì, la legge di pubblica sicurezza, tuttora in vigore, sostiene che è di competenza dello Stato una deliberazione in questo senso e non del Comune. Ricorrerete al Consiglio di Stato, Sindaco? Non possiamo ricorrere al Consiglio di Stato perché la sentenza è andata in giudicato, ma visto come è stata impostata, i nostri avvocati ci dicevano che non aveva senso ricorrere al Consiglio di Stato. Ovviamente ci opponiamo invece al discorso della quantificazione dei danni. Per inciso, questi soldi in cassa ce li avete? Li avremmo, ma la tesoreria unica ce li ha portati via, ma al di là di questi averli o non averli, noi andiamo a ricorrere, non abbiamo nessuna intenzione di pagarli. Però io direi che da questa storia ne nasce un insegnamento per tutti, dobbiamo in Italia arrivare a una regolamentazione di queste macchine, perché stanno veramente rovinando generazioni intere di italiani. È un problema di carattere sociale evidente, abbiamo avuto tantissimi episodi che lo sottolineano, credo che lo Stato non può essere contento di incassare la sua quota sui giochi e poi non rendersi conto del danno che sta facendo ai suoi cittadini. Questo tra l'altro lo verificate sul campo, perché c'è una gestione che è affidata a voi, che è quella dei servizi sociali. Sì, che ogni giorno si trovano a dover gestire delle emergenze direttamente o indirettamente legate alla questione dei giochi. Seconda parte di GR24, queste notizie principali della giornata. PIL in calo dell'1,3%, stima Confcommercio, siamo tornati ai livelli del 1999. Le tensioni sui mercati, il differenziale con il Bund tedesco risale a quota 330 punti. Non ci sarà una valanga di licenziamenti, dice Napolitano, quella del lavoro è una riforma necessaria, ci sarà dibattito in Parlamento. Lo sciopero delle bisarche mette in crisi il settore auto, la Fiat denuncia minacce e incendi di automezzi. Il Papa in viaggio verso il Messico andrà anche a Cuba. Riprendiamo dalla Francia. Questa mattina ha parlato il coordinatore europeo della lotta al terrorismo, Gilles de Kerchove, ha detto ci sono circa 400 estremisti islamici addestrati da Al-Qaeda in Europa e la maggior parte di essi si trova in Germania, Francia, Gran Bretagna e Belgio. De Kerchove ha parlato questa mattina dopo l'uccisione di Mohamed Merah, autore delle stragi di Tolosa. Naturalmente in Francia ci sono polemiche che hanno anche un aspetto politico in vista delle elezioni. Allora facciamo il punto in diretta con Marco Moussanet, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dicevo che c'è naturalmente un aspetto molto importante politico, proprio perché ci sono in vista le elezioni. Sì, sicuramente la vicenda di Marsiglia, di Tolosa, ha cambiato il volto della campagna elettorale, imponendo dei temi legati alla sicurezza, all'estremismo islamico, che erano stati relegati in secondo piano durante le prime settimane della campagna, in cui si erano privilegiati i temi economici. Senti, le polemiche sono anche polemiche che puntano un po' il dito ai servizi che sono intervenuti, queste forze speciali, giusto? Beh, sicuramente ci sono una serie di domande che aspettano ancora una risposta in questa vicenda. Fin dall'inizio, fin dal fatto che Merah, che ha una storia, un passato decisamente particolare e inquietante, non fosse tenuto adeguatamente sotto controllo. È un uomo che dopo aver avuto numerose condanne da ragazzo per vari reati, aver palesato un comportamento violento, è stato due volte nelle zone tribali al confine tra Afghanistan e Pakistan, è stato in Siria, in Giordania, in Iraq, insomma è abbastanza bizzarro, francamente, o almeno sembra bizzarro all'opinione pubblica che non ci fosse un adeguato controllo. Teniamo presente che secondo gli esperti in Francia non ci sono più di 20-25 persone che sono state nelle zone tribali del Waziristan, di cui 6 nella regione di Tolosa. In testa a questa lista c'era proprio Merah. Quindi ovviamente ci si chiede, d'un lato, come mai non era adeguatamente controllato e abbia potuto procurarsi tutte le armi di cui era in possesso senza che questo come dire, allertasse i servizi locali. Ci si chiede anche se non era il caso di accelerare le indagini dopo l'omicidio il secondo omicidio dei militari, in cui si capì che era lo stesso uomo ad aver colpito, e quindi se gli stessi mezzi che sono stati messi in atto subito dopo la strage alla scuola ebraica, se fossero stati messi in atto prima, se forse era possibile risalire prima a Merah. Dopodiché certo ci si chiede anche, ci sono dei dubbi anche sull'operazione, sulla capacità di queste forze, del corpo speciale del RAID, certo. Perché ci si chiede com'è possibile, se l'ordine era catturarlo vivo, ed effettivamente catturarlo vivo avrebbe consentito di assumere una serie di informazioni sulle filiere, sulle complicità, com'è possibile che 60 uomini di un corpo speciale iperaddestrato con i mezzi tecnologici più avanzati, che circonda un uomo solo in un appartamento di 35 metri quadrati dentro un quartiere blindato da migliaia di poliziotti, non siano riusciti. Bene, grazie a Marco Mussanè da Parigi. Adesso parliamo del Papa, che è in viaggio per il Messico, dove si tratterrà fino a domenica. Lunedì poi si sposterà a Cuba, come fece Giovanni Paolo II nel 1998. E così, al microfono di Katia Caramelli, ricorda la storica visita di Wojtyla il suo portavoce Joaquín Navarro Valls. Il clima non è che ha cambiato moltissimo, ma la Chiesa cubana, la gerarchia, ha un ruolo sociale che prima non aveva. Continuano molte difficoltà, però si è aperto, dopo quella prima visita di Giovanni Paolo II, uno spazio nella vita sociale cubana che è più sostanzioso per l'attività della Chiesa. Come si è dimostrato tra l'altro recentemente in alcuni casi difficili, dove la Chiesa ha avuto un ruolo di mediazione tra certe richieste di libertà della società cubana e le autorità del paese. Lei ebbe modo in quell'occasione di confrontarsi molto con Fidel Castro. Che persona trovò? Che persona era? Forse un po' diversa di quello che il topico fuori di Cuba presentava. Era un uomo con una certa dignità personale. Io penso che lui era sincero quando pensava e diceva che voleva aiutare il suo popolo, allo stesso tempo mi è sembrato che aveva una incapacità enorme per capire il disastro che stava combinando in quel paese, il disastro umano, la mancanza di libertà, una serie di cose, questo sembrava non rendersene conto. Oggi si parla tanto della conversione di Fidel Castro, che rapporto secondo lei aveva allora con la fede? Naturalmente ho avuto l'opportunità di parlare con lui 6 ore di seguito, quindi molto tempo, però quello che di lui stesso mi ha detto non considero che appartiene alla sua coscienza e che alla mia discrezione. Comunque ho avuto la impressione che il tema, chiamiamolo il tema religioso, non era un capitolo del tutto chiuso. Il ministro degli esteri Giulio Terzi è a Bruxelles, dove vedrà l'alto rappresentante dell'Unione Europea Catherine Ashton per fare il punto sulla vicenda dei due militari italiani in carcere in India. I contatti che ci sono stati stanno dando la percezione anche alla parte indiana, ha detto il ministro, che si tratta di una questione che deve essere risolta molto rapidamente. 19 detenuti ex membri di Al-Qaeda sono riusciti a evadere dal carcere di Kirkuk nel nord dell'Iraq dopo aver addormentato le guardie di sicurezza offrendo loro dei datteri imbottiti di sonnifero. Tra i detenuti in fuga ci sono anche 2 condannati a morte. Notizia di poco fa: nel 2011 sono arrivate a 301.000 le richieste d'asilo nell'Unione Europea, secondo i dati di Eurostat, in aumento di quasi il 20% rispetto al 2010. Adesso parliamo della Formula 1, siamo a Sepang, seconda tappa del mondiale, ci racconta tutto Carlo Genta. Buongiorno Carlo. Buongiorno Enrico, prima giornata di prove oggi, quelle del venerdì, indicative fino a un certo punto, però testimoniano come Lewis Hamilton e la McLaren sono l'uomo e la macchina da battere in questo inizio di stagione. Miglior tempo per Hamilton sia alla mattina che al pomeriggio. Pomeriggio davanti a Schumacher, all'altra McLaren di Jenson Button, quindi Rosberg, Ricciardo e poi le Ferrari. Sesto tempo per Alonso, però staccato di 7 decimi da Hamilton, 16° tempo addirittura per Felipe Massa, sono andate piano nel pomeriggio anche le Red Bull. Non c'è molta fiducia nel team del cavallino, si corre chiaramente in difesa in queste prime corse, sono stati provati diversi assetti e diversi anche pezzi nuovi, diverse componenti nuove sulla vettura. Domani mattina alle 9 italiane ci sono le qualifiche, insomma ci sarà da soffrire anche in questa corsa malese. Enrico. Grazie a Carlo Gente, allora occhi puntati soprattutto domani mattina sulle nostre Ferrari. Adesso vi ricordiamo che sabato notte, la notte tra sabato e domenica, le lancette degli orologi dovranno essere messe in avanti di un'ora perché scatta l'ora legale. Secondo Terna, la società che distribuisce l'energia elettrica in Italia, nei prossimi 7 mesi ci sarà un risparmio complessivo di consumi di energia elettrica per 630 milioni di kilowattora, che corrispondono a circa 95 milioni di euro. Adesso per concludere la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Questa bancarella è esente dall'emissione dello scontrino fiscale. Non si poteva non notare il cartello esposto nel pomeriggio del 21 febbraio da una bancarella dello Zucchero Filato a Bergamo. L'ambulante ha sentito il bisogno di spiegare ai clienti del Luna Park che non è tenuto a emettere lo scontrino in base ad una legge che concede l'esenzione a chi vende i cosiddetti prodotti poveri. Si tratta del decreto ministeriale del 21 dicembre 92, articolo 1, comma 11. In passato era difficile vederne di cartelli di questo tipo. Ho iniziato a metterlo quest'anno perché tutti chiedono lo scontrino, si è giustificato il venditore ambulante. Bene, non sempre però gli ambulanti hanno diritto a queste esenzioni. A Palermo, ad esempio, sono stati controllati negli ultimi giorni 61 ambulanti con posto fisso. Nel 95% dei casi le Fiamme Gialle hanno riscontrato delle irregolarità. In particolare a 37 ambulanti risultati completamente abusivi sono stati contestati il mancato possesso della licenza e del registratore di cassa. 18 di loro sono stati sanzionati per la mancata emissione dello scontrino. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:27 minuti 30 secondi, abbiamo una notizia arrivata pochi secondi fa, spunta la DEC, società dei costruttori Daniele e Gerardo De Gennaro, arrestati nell'inchiesta sugli appalti a Bari, nelle carte appena depositate con la chiusura della prima tranche dell'inchiesta sul San Raffaele di Milano. E c'è un indagato che dice di aver visto uno dei De Gennaro portare soldi in una valigia a Mario Call. Naturalmente ci saranno maggiori particolari nelle prossime edizioni di GR24. Questa è stata curata e condotta da Enrico Paglierini, che vi ringrazia per l'ascolto. Ringrazio anche Roberto Scaltritti, che si è occupato della parte tecnica. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.